Ricco programma anche di voci per quello che andremo ad anticipare, quindi siamo con Caterina Molteni, responsabile per questa edizione del special program Il Corpo della Lingua, che è il progetto curato dal Mambo per Art City 2026. È un'edizione che appunto rilegge l'idea di Lorenzo Balbi di creare una collaborazione con l'Università di Bologna, dedicando il tema alla conoscenza e la sua trasmissione. Un approccio che abbiamo deciso di intraprendere uscendo un po' dalla canonica lettura della conoscenza come un processo astratto o teoretico, invece leggendolo come un qualcosa di sensibile e fisiologico. Infatti il titolo appunto rimanda a un corpo, quindi Il Corpo della Lingua, che è un testo di Giorgio Agamben del 2024, dove il filosofo ci parla del linguaggio come qualcosa di vivo e non statico, qualcosa che continua a cambiare, costantemente in fuga da delle identità grammaticali eccessivamente definite. Per quanto riguarda questo lavoro c'è un'intersezione importante, come abbiamo già detto, ma c'è anche un richiamo per il pubblico per alzare anche un po' l'asticella per quanto riguarda l'approccio con le espressioni artistiche. Esatto, sì, lo special program ha questa funzione, cioè quella di portare a Bologna i linguaggi dell'arte contemporanea internazionali e nazionali di alto livello, e quindi io e tutto il team del Mambo lavoriamo per presentare al pubblico delle opere e degli interventi che diano un assaggio di quelle che sono le principali tendenze contemporanee e i grandi protagonisti che stanno delineando un po' i linguaggi di oggi. Collaborazioni, oltre che chiaramente l'Ateneo, l'Alma Mater. Abbiamo anche la Fondazione Zeri, che appunto è parte dell'università, ma è una fondazione a parte, ma anche l'Archiginnasio, che è parte delle biblioteche comunali, con un'opera proprio al Teatro Anatomico. Quindi sono 7 le sedi in tutto, di cui 5 dell'Ateneo, una del Comune e una appunto Fondazione Zeri. Grazie e buon proseguimento. Grazie.